il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Lo sguardo del lupo è il titolo di un romanzo scritto per raccontare di una montagna abitata dai lupi. Lo ha scritto Giancarlo Ferron, un guardiacaccia che abita a Castelnuovo di Isola Vicentina e che non è nuovo a trasferire le proprie esperienze in un libro. Anzi, potremmo dire che è uno dei più apprezzati scrittori italiani di montagna. Io ho contato almeno 8 suoi volumi, di cui ci tengo a leggere i titoli perché mi sembrano tutti molto significativi e quasi tutti legati ad un animale, non tutti in realtà. Uno è, per esempio, Ho sentito il grido dell'aquila, La zampata dell'orso, Il suicidio del capriolo, ma poi anche La mia montagna, Uomini e bestie in cammino, Ho visto piangere gli animali, che forse è il titolo un po' più noto della sua produzione, e I segreti del bosco. Abbiamo con noi oggi appunto l'autore Giancarlo Ferron, proprio per sapere, perché vorremmo conoscere come sono nati questi libri e che cosa c'è anche di quello della sua esperienza che lui riesce a trasferire. Grazie signor Giancarlo. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, lei è un guardiacaccia e ci viene da pensare che, visti i titoli e i temi di questi libri, che ci sia anche qualcosa del suo lavoro all'interno, o comunque della sua esperienza personale all'interno di questi boschi del Veneto. Sì, esattamente, nel senso che il primo libro, che appunto è Ho visto piangere gli animali, è nato da un grande desiderio di raccontare a più persone possibili ciò che accadeva nei boschi, perché quando io raccontavo ai miei amici e ai miei conoscenti i fatti che accadevano durante il mio mestiere, sembravano quasi favole del Medioevo, cioè cose che al giorno d'oggi non possono succedere. Invece le attività di bracconaggio, insomma le attività illecite che riguardano l'ambiente, ci sono tuttora e continuano ad esistere, e quindi sono partito da questo filone, che era un po' una cosa che non c'era in editoria, non esisteva una serie di racconti in cui si parlasse di bracconaggio, di cose insomma effettivamente accadute, perché posso garantire che sono tutte cose realmente accadute. E da lì però sfogata, diciamo così, questo desiderio di raccontare queste cose, se vogliamo, negative, è stato un percorso attraverso vari volumi, dove ho voluto parlare della bellezza, degli aspetti nascosti della montagna, nascosti ai più, ovviamente non alle persone che frequentano per motivi di lavoro o di passione la montagna, quindi gli animali selvatici visti da una persona, un innamorato folle, diciamo così, della natura selvaggia. E quindi inserendoli in alcuni racconti o addirittura in biografie che riguardano, per dire, l'orso, no? Quando è arrivato l'orso qui da noi, che è arrivato grazie a un progetto messo in piedi nella provincia autonoma di Trento, è tornato ad abitare queste montagne, perciò animali che sono affascinanti per vari motivi, perché hanno una storia dietro, perché nell'immaginario collettivo sono considerate a volte pericolosi, a volte inavvicinabili, insomma ci sono varie storie che girano su questi animali, e ne ho sempre approfittato per cercare di portare una visione scientifica, quindi diciamo così notizie corrette, e anche per raccontare storie insomma attorno a questi soggetti così interessanti. I suoi libri sono romanzi, sono racconti, sono storie, e come nascono? C'è di tutto un po', nel senso che sono partito da una serie di racconti, poi sono finito anche per fare, diciamo così, dei libri quasi su richiesta, nel senso che la casa editrice, la Biblioteca delle Immagini, a volte mi ha dato anche qualche suggerimento. Ne è un esempio Uomini e bestie in cammino. Si tratta in sostanza di un'esperienza che ho fatto appositamente per capire di che cosa si trattava, cioè una transumanza gigantesca, è considerata una delle più grandi d'Europa, che avviene qui nel Vicentino alla fine di settembre. In sostanza 500-600 bovini in una volta partono da una zona bellissima che è Marcesina dell'altipiano di Asiago, e vanno in pianura, quindi si fanno 90 km a piedi in 3 giorni con una mandria di 500-600 animali. Ed è un'esperienza incredibile, quindi arrivano sicuramente, sono sempre libri che arrivano da un'esperienza diretta, cioè da cose vissute sulla mia pelle, che poi ovviamente vengono anche romanzate, perché nel caso questa pubblicazione, che non è nuova, ma insomma dello sguardo del lupo, è ovviamente deve essere un percorso personale fatto in prima persona, voglio dire, per capire certi aspetti di quello che racconto, e per forza di cose mi viene sempre chiesto: ma è autobiografica questa tua storia? Certo. Potrei dire di sì da un certo punto di vista, perché se non un'esperienza non la vivi in prima persona è difficile anche descriverla, almeno per me è così. E quindi si tratta sempre ovviamente di cose romanzate, dove non si capiscono nomi, non si capisce nulla da dove viene questa cosa, però è evidente che si tratta di esperienze vissute, insomma. Ecco, il suo primo libro credo sia Ho visto piangere gli animali, o comunque forse il più famoso. Sì. Questi animali piangono per, cioè, a causa dei bracconieri, o ci sono altri motivi che fanno piangere gli animali? Sì, no, effettivamente è proprio, questo libro è una raccolta di racconti, proprio di fatti realmente accaduti nella mia professione, che poi io mi aspettavo anche in realtà un forte contrasto. In realtà nessuno ha osato contrastare o dire che non è vero quello che ho scritto, perché probabilmente tutti immaginavano che, facendo un mestiere come il mio, io avessi nel tempo e negli anni accumulato una serie di documenti con i quali, voglio dire, dimostrare che è tutto vero. Anzi, dirò di più, che trattandosi di fatti accaduti in un mestiere dove io esercito, devo dire, una funzione pubblica, sicuramente non potrei raccontare un fatto singolo, perché le persone sarebbero in qualche maniera riconosciute o ci sarebbe questo pericolo. In realtà si tratta di fatti accaduti più volte e più volte, tanto che è impossibile dire di quale fatto io sto in quel momento parlando in un determinato racconto, e quindi si tratta di veri e propri atti di bracconaggio, al di fuori di ogni regola, perché poi alla fine questi libri finiscono per etichettarmi come un anticaccia, come un ambientalista estremo, eccetera. Nulla di tutto questo, perché io sono un ambientalista convinto, un naturalista, vorrei dire, convinto, nel senso che per me la tutela della natura, dell'ambiente in generale, è una cosa fondamentale per la vita umana, ma non per questo mi sono mai scagliato contro persone che hanno passioni che io non esercito, come la caccia, queste cose qua. Sicuramente, proprio da cittadino, però mi sono sempre messo contro, certo, senza problemi, all'illegalità, insomma, questo sì. Ecco, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, sì. Torniamo tra poco. Ok, grazie. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. All'istante, sguardo compiacente, subito l'intesa che speravo con te. Evitando strani perditempo, inizio a scoprire un uomo nuovo in me. Troppi errori sulla pelle, troppe le mie stelle come luci in città. Ecco, adesso prendo tempo, porto la mia vita in un'altra realtà. Sto con te perché sto meglio, sto con te perché mi va, e anche oggi ho fatto centro, invece di lasciare sempre tutto a metà. Come sempre, ogni appuntamento, io mi presento con un fiore rosso. All'occhiello, la tela di un ombrello, piove ma non ci bagniamo neanche un po'. Parliamo, al massimo si ride, al minimo l'istinto si affaccerà. Al limite di un caldo più dell'Africa, darò tutta la colpa al solito Peter Pan. Sto con te perché sto meglio, sto con te perché mi piaci, e anche oggi ho fatto centro, perché vuol dire che ne siamo capaci. Sto con te perché fai bene, e poi non sei mai banale, anche oggi ho sto con te perché fai bene. E poi non sei mai banale. Anche oggi ho fatto centro. È un giorno misterioso, fortunato e speciale. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con uno scrittore, ma anche un guardiacaccia, Giancarlo Ferron, autore di numerosi libri che prendono spunto dalla sua esperienza e che parlano di animali. Oggi lei, nei suoi titoli, ci sono i suoi romanzi, ci sono molti animali. Oggi alcuni di questi, per esempio il lupo, abbiamo citato prima l'orso, stanno tornando in luoghi dove vivevano magari anche tempo fa, tanto tempo fa. E gli uomini che abitano in quei luoghi sono impreparati. Come vive questa situazione? Che cosa si può fare? Ah, questo è senza dubbio che siamo tutti impreparati, nel senso che il lupo, almeno dal Veneto, manca da oltre un secolo e per questo girano queste favolette, no? Io definisco favolette nel senso che molti, anche persone, vuol dire spesso in vista, sostengono che i lupi sono stati portati, sono stati liberati da qualche folle, non saprei come definirlo. La cosa non è assolutamente vera, nel senso che l'ambiente che noi conosciamo, che nel corso di una vita umana, parlo della mia vita umana, nella quale ho avuto modo di vedere sia, voglio dire, come cittadino, ma anche per il mestiere che faccio, il cambiamento che ha subito l'ambiente montano soprattutto. Quindi siamo passati da un ambiente estremamente sfruttato dopo dopoguerra, quindi dove l'uomo era presente, coltivava, pascolava, portava via tutto quello che era possibile per sopravvivere. Poi a una fase di sviluppo industriale in cui l'uomo ha abbandonato totalmente la montagna, si è stabilito in fondo valle e quindi ha costruito zone industriali gigantesche e via dicendo, e da qui l'ambiente che è cambiato, e quindi con una rinaturalizzazione che è avvenuta proprio spontanea, sono arrivati i grandi ungulati a partire dal capriolo, poi il camoscio, poi il cervo, via dicendo, e con l'arrivo di questi grandi ungulati, quindi di animali fra virgolette potenziali prede, è ritornato anche il lupo. Noi conosciamo il lupo, cioè abbiamo ricordi e dati scientifici che ci raccontano di un lupo in via di estinzione negli anni 70, primi anni 70, quindi si pensava ce ne fossero appena poco più di 100 capi in Abruzzo centro-meridionale, e da qua, dopo una tutela della legge, quindi la storia sarebbe lunga, ma in sostanza dopo una tutela, dopo l'abbandono e via dicendo, questo lupo è riuscito a colonizzare spontaneamente, e sottolineo 100 volte spontaneamente, tutto la dorsale appenninica fino ad arrivare alla Liguria e poi in Piemonte. In sostanza in Piemonte il lupo è presente da 20 anni, e da qui questo fenomeno che si chiama di dispersione, cioè mano a mano che il lupo sta bene e colonizza un certo territorio, si stabilisce e quindi diventa territoriale, via via i nuovi nati cominciano a colonizzare territori nuovi, e in questa maniera, con questo fenomeno della dispersione, piano piano sta arrivando anche su tutto l'arco alpino. Abbiamo lupi appenninici che arrivano, abbiamo lupi che arrivano dalla Slovenia, abbiamo addirittura tracce genetiche, insomma, individui che sono stati, posso dire, mappati geneticamente, che arrivano addirittura dalla Svizzera, nell'arco alpino, e quindi c'è questo ritorno spontaneo del lupo. È chiaro che i pastori attuali non sono più abituati a tutelare i loro animali domestici da questo arrivo, ma le istituzioni, insomma, si danno da fare. È in corso un progetto europeo in cui ci sono dei fondi che servono proprio a mitigare questi conflitti fra allevatori e con questa presenza del lupo, quindi se vengono forniti recinti elettrici, vengono pagati i danni che i lupi eventualmente fanno agli animali domestici, e quindi parlare di queste cose da un punto di vista istituzionale è una cosa, raccontarle in un libro bisogna cercare di coinvolgere la persona che legge, in modo tale da almeno trasmettere questa idea della quale sono profondamente convinto, cioè che si possa convivere con questi grandi predatori. Certo è che bisogna fare un passo indietro e ricordare quello che facevano i nostri nonni, come si difendevano, voglio dire, da questo lupo, e quindi non con il bracconaggio, ma riparando gli animali durante la notte con mezzi ovviamente moderni e non con quelli del Medioevo, però in questo caso si possono usare anche i cani da guardiania, cioè sono dei cani addestrati che sono stati storicamente selezionati in Italia come cane del pastore abruzzese, che è stato proprio selezionato a questo scopo, quindi ci sono tutti i mezzi. E che potrebbero tornare a rifare quello che da tempo non facevano. Esatto. C'è qualche animale che a lei, a cui è particolarmente legato, e ce n'è qualcuno di cui non ha ancora parlato, che, al quale magari dedicherà un prossimo libro? No, allora, mi è difficile parlare di un animale preferito, perché appunto io sono, ogni volta che mi interessa di una specie, a parte che sto per mestiere e per passione leggendo e studiando e seguendo convegni, sto imparando tuttora, anche se da 30 anni faccio questo mestiere, tutti gli animali selvatici, mi sento particolarmente, se vogliamo dire, simile, proprio per come mi sento, simile a un orso, cioè vado un po' per i fatti miei, sono una persona solitaria che gira per i boschi, ma non perché non riesca a stare con i miei simili, anzi mi piace anche quello, però preferisco molto il silenzio dei boschi, la natura selvaggia e il fatto di non lo vado a cercare questa mia attività di essere controcorrente, ma mi trovo, mio malgrado, a volte essere spesso contro, non contro, ma di pensare in maniera diversa rispetto soprattutto a questi grandi predatori, perciò mi sento un po' di rivestire questi panni. Senta, un animale che qual è il prossimo libro, a quale animale sarà dedicato, se l'ha già pensato? No, non ci ho ancora pensato, per il momento sto ancora godendo, diciamo così, del successo che ha questo libro, Lo sguardo del lupo, e sto facendo tantissime serate perché per coincidenza è anche un tema di attualità, insomma, questo lupo, io, è uscito un anno e mezzo fa questo libro, ma non, i lupi sono arrivati dopo, ma in realtà si è un po' sovrapposto questo arrivo del lupo reale, diciamo così, rispetto a quello che avevo descritto, ed è una cosa interessante perché mi dà la possibilità appunto di divulgare notizie corrette e di parlare in maniera sincera, insomma, di questa specie. Va bene, la ringraziamo per quello che ci ha raccontato, abbiamo esaurito un po' il nostro tempo, però penso che anche questi libri, questi titoli che posso anche ricordare, ho sentito il grido dell'aquila, lo sguardo del lupo, la zampata dell'orso e tanti altri, editi dalla Biblioteca dell'Immagine di Pordenone, li potete trovare in libreria, in molte librerie, non solo specializzate o su internet, e possono essere un suggerimento utile di lettura, non solamente per chi è ambientalista, naturalmente. La ringrazio. Grazie a tutti. Con questo è tutto. Vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.